Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. La France è il premier utilisateur européen de pesticides et de loin. La Francia è il primo utilizzatore europeo di pesticidi, di gran lunga, e il secondo mondiale secondo le statistiche. L'uso dei pesticidi in agricoltura interessa circa l'80% degli agricoltori. 9 sono i trattamenti per il grano, più di 27 per le mele. C'est vrai qu'aujourd'hui je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, che le cantine sia bio. Oggi per questo mi impegno, affinché in tutte le scuole e negli ospedali le mense servano pasti bio. Siamo in una piccola comunità dove il sindaco ha deciso di reagire e dove ora nella mensa si serve cibo bio. Siamo a Barjac, un comune dove, come altrove, gli abitanti sono angosciati dall'inquinamento industriale e dai pericoli dell'inquinamento dell'industria dei pesticidi. Qui comincia una lotta contro una logica che potrebbe diventare irreversibile. Una lotta affinché domani i nostri figli non ci accusino. Un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas. Buongiorno, avete appena sentito una clip tratta da Nos enfants nous accuseront, un lungometraggio del 2008 realizzato da Jean-Paul Jod che sostiene delle tesi apocalittiche su erbicidi, pesticidi, agrofarmaci. Arriva a dire che ben 100.000 bambini europei morirebbero per malattie causate dall'ambiente e in particolar modo dagli erbicidi e dai pesticidi, e che il 70% dei cancri sarebbe causato da questo. Ora, capita raramente di assistere a una tale massa di stupidaggini, però queste stupidaggini contenute in questo film, che però è raccontato bene, ha delle musiche che sono convincenti, corrispondono a una vulgata recente e per molti aspetti deleteria che si fa sempre più strada, per cui erbicidi, pesticidi e la chimica sarebbero il nemico e invece l'agricoltura pura, biologica, si sarebbe sempre dovuta perseguire. Nulla di vero, se non ci fossero gli agrofarmaci non si riuscirebbe a sfamare l'umanità, i cibi sarebbero distrutti da funghi e da insetti e la produttività agricola sarebbe un quarto di quella attuale. Io penso che se non ci fossero insetticidi, pesticidi, fungicidi, erbicidi, non avremmo neanche la civiltà occidentale sviluppata così come è oggi. E non si sarebbe ridotta la fame del mondo come si è ridotta negli ultimi 30 anni. Oggi siamo 7,3 miliardi di persone e soffrono la fame 795 milioni di persone, cioè circa un decimo. Nel 1990 eravamo 5,7 miliardi e soffrivano la fame 1,1 miliardi, cioè un sesto. Quindi la fame nel mondo si è ridotta da un decimo a un sesto. Viva dunque l'industria degli agrofarmaci. L'industria degli agrofarmaci è uno dei punti di forza della chimica italiana, anzi, nell'andamento della chimica è uno dei comparti che si sono difesi meglio. Oggi di questi argomenti, per poi arrivare anche a parlare della loro evoluzione bio che c'è ed è giusta, ne parliamo con Giorgio Basile, che è l'amministratore delegato e il presidente di Isagro, una delle più note società di agrofarmaci in Italia e l'unica quotata. Il claim di Isagro è Italian Creativity for Plant Health. Buongiorno, dottor Basile. Buongiorno. Allora, che cosa ne pensa di questa vulgata un po' anti-agrofarmaci con questi toni apocalittici? Devo dire che io sono stato per un certo numero di anni presidente di Agrofarma, che è l'associazione nell'ambito di Federchimica che cura questo settore di attività. E la prima cosa che cercai di fare, riuscendoci, fu di denominare in modo corretto i farmaci per l'agricoltura, che chiamiamo agrofarmaci, per la verità cercando in questo modo di far capire a tutti che di farmaci si tratta. È ovvio quindi che sono una cosa delicata, così come i farmaci per la salute umana e così come i farmaci per gli animali. Gli agrofarmaci sono una cosa delicata, ma come ho ascoltato nella introduzione, abbiamo ancora circa 800 milioni di persone che non mangiano adeguatamente e abbiamo 2 miliardi di persone in arrivo. Siccome la terra coltivabile non è aumentabile, l'unica soluzione è alzare la resa per ettaro. Detto questo, forse non si sa che perché un prodotto venga portato sul mercato occorrono anni e anni e anni di controlli. Ricerca, ci vogliono più di 10 anni per portare un prodotto sul mercato e oramai le cifre sono spaventose. Ci vogliono 350 e 200 milioni di euro per portare un prodotto sul mercato. Ma questo è a garanzia della salubrità dei prodotti. È evidente che di farmaci si tratti, quindi si usano quando servono e non si usano per divertimento. Ma il rapporto costo-beneficio da tutti i punti di vista, anche di quello della salubrità dell'ambiente, è assolutamente a favore dell'utilizzo di questo strumento. Guardi, lei ha fatto bene a ottenere la denominazione agrofarmaci. A me piace chiamarli erbicidi e pesticidi perché non sopporto questa vulgata bio, che poi anche la stessa dell'Italia dei cuochi, che è diventata la vulgata dell'Italietta, e allora chiamandoli così affermo la centralità dell'industria. Però lei fa il manager, io faccio il polemista e dico sciocchezze in radio. Nonostante questo, comunque, ci sono anche soluzioni completamente biologiche che sono utili, interessanti, che sono efficaci, che sono efficienti, e la ricerca nel settore degli agrofarmaci, anche in Italia, va in direzione di quelle che si chiamano le biosolutions. Ci può spiegare che cosa sono e poi arriviamo a quello che fate voi? Guardi, col termine biosolutions o diciamo termini simili, si intende l'insieme dei mezzi per la protezione delle piante e quindi delle colture che siano che abbiano materia prima di origine vegetale o comunque riproducano sostanze esistenti in natura. Ecco, questa la parola bio fa riferimento quindi all'uso di sostanze naturali per contenere o eliminare i danni fatti da funghi, da erbe e da insetti. Sì, però bisogna capire questo, che non a caso la componente bio viene vista come una parte della cosiddetta lotta integrata. Mi spiego, una pianta va difesa in via preventiva rafforzandola. I biostimolanti, per esempio, che sono una componente la più importante nell'ambito delle biosolutions, rafforzano la pianta. È evidente che un organismo rafforzato resiste meglio agli attacchi degli elementi nocivi. Quali sono gli elementi nocivi? I funghi, gli insetti, le malerbe. Allora, una pianta rinforzata resiste meglio, ma vale come per l'uomo, che quando prende, non so, delle vitamine, magari il raffreddore se lo prende meno probabilmente o meno forte, ma quando arriva il raffreddore la vitamina non basta più, ci vuole qualcosa per curare il raffreddore. Questo è il concetto. E anche per potenziare la resa potremmo parlare del Viagra come metafora, quando fioriscono. Sta a lei usare le metafore. Io rimango sul discorso magari noioso di quello delle cure delle piante. Però quello che è molto grave è che, parlando di una cosa bella, cioè un prodotto di origine naturale, un prodotto diciamo che comunque riproduca qualcosa che sia in natura, parlando di una cosa bella, si passa un messaggio falso. E cioè che il cibo ottenuto con l'agricoltura tradizionale abbia aspetti di non salubrità. Questo è semplicemente falso. Sì, è una stupidaggine insopportabile. Essendo falso, questo è grave. Mentre invece va benissimo che convivano le due fonti, quella chimica e quella naturale, ma deve essere chiaro che quando c'è una vera malattia, un vero attacco, insomma, le armi chimiche sono indispensabili. Ecco, per capire che cosa sono le biosolution è meglio sentire un esempio concreto. L'esempio concreto si chiama Ecodian, che è un prodotto di Isagro fatto in collaborazione con Novamont. Ascoltate qui molto brevemente. proteggere le orticolture da parassiti che le possono distruggere o creare danni alla salute del consumatore. È questo lo scopo di Ecodian, una soluzione totalmente biologica realizzata da Esagro in collaborazione con Novamont. Ecodian è uno dei primi prodotti della categoria BioSolution, categoria che rappresenta uno dei pilastri della strategia di Esagro. Il mercato mondiale delle BioSolution vale oggi 2,5 miliardi di dollari. Il 10% è realizzato in Italia, dove nei prossimi 3 anni è previsto il raddoppio dei volumi di utilizzo. Ecodian, destinato a orticole e floricole in pieno campo o serra, inibisce la potenza distruttiva di un temibile fitofago, la Spodoptera littoralis, nota come nottua del cotone, un flagello capace di distruggere ettari di coltivazioni e di ridurre alla fame intere popolazioni. L'inibizione avviene attraverso il disorientamento sessuale, ossia impedendo al maschio di raggiungere e fecondare la femmina, che dunque non genererà uova e larve, responsabili del danno alle colture. Il mancato accoppiamento si spiega con il rilascio di un feromone, identico a quello delle femmine vergini, da parte di un filo in cellulosa, tecnologia brevettata Esagro, rivestito in Mater-B, materiale esclusivo Novamont, formando tracce feromoniche che sono predominanti su quelle delle femmine. In tal modo il maschio segue tali tracce artificiali, ma senza mai raggiungere le femmine. È così che vengono impediti accoppiamento e riproduzione. In buona sostanza, la riduzione della potenza distruttiva dell'insetto viene raggiunta attraverso l'utilizzo ridotto di insetticidi di sintesi chimica, un metodo in linea con i principi della sostenibilità delle produzioni agricole. Allora, avete appena ascoltato la descrizione di Ecodian che vi fa capire che cosa sono le BioSolution e come funzionano. Il mercato del bio nel campo degli agrofarmaci è destinato a crescere. Oggi il mercato globale vale 2,5 miliardi, 10% dei quali prodotti in Italia. In 3 anni è previsto il raddoppio dei volumi, no? Giusto, dottor Basile? Sì, sono cifre pubbliche, quindi sono corrette come ordini di grandezza. Comunque, l'aspetto interessante per questi agrofarmaci che ci permettono di vivere, permettono alla nostra società di sussistere, è quello della ricerca, che comporta grandi sforzi e una certa organizzazione e che richiede anche particolari modelli di business. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. Buongiorno, rieccoci in linea, stiamo parlando con Giorgio Basile, che è amministratore delegato e presidente di Esagro. Il nostro tema sono gli agrofarmaci e anche la storia di Esagro, che è una delle più grandi e importanti aziende che li producono in Italia ed è l'unica quotata. Stavamo parlando di tutta la ricerca che è necessaria per mettere a punto agrofarmaci innovativi. Tra l'altro il claim di Esagro, che a me piace molto, è Italian Creativity for Plant Health, la creatività italiana al servizio della salute delle piante. Ecco, parliamo della vostra ricerca e sviluppo e poi anche di quanto sia importante in questo settore. Beh, la ricerca è ovviamente importantissima, qui però vorrei dire che nell'ambito della ricerca bisogna distinguere la scoperta di nuove molecole da quello che è invece tutta una serie di attività per arricchire l'uso di una molecola esistente. Cioè un principio attivo, così si chiama il medicinale, ma vale anche per il medicinale per la salute umana, dà luogo a più formulati. Quando uno prende uno sciroppo, prende un formulato all'interno del quale ci sono dei medicinali. Allora, inventare il medicinale, la nuova molecola, è un'impresa molto ardua, occorrono insomma, delle capacità che non sono così diffuse. Nel caso di Esagro, noi siamo un'eredità della cultura di ricerca di Montezio, quindi questa è quella che ci caratterizza, con cui riusciamo ad andare avanti in questo settore della ricerca. Quello che però è la grande difficoltà è lo sviluppo, nel senso che giustamente prima che un nuovo medicinale potenziale venga portato sul mercato, giustamente il numero di prove su efficacia, ma soprattutto sulla compatibilità ambientale, sulla compatibilità con la salute umana, animale e delle altre piante, richiede risorse molto ingenti. Ci vogliono almeno una decina di anni di lavoro per portare un prodotto sul mercato, ci vogliono investimenti nell'ordine di grandezza, diciamo 350 e 250 milioni di euro. Quindi questo spiega perché sono rimaste poche grandi società che fanno questo mestiere della ricerca e sviluppo di nuove molecole, e noi, la piccola nei confronti dei grandi, Isagro, che ripeto, per questa tradizione, cultura di origine di quello che era il grande gruppo chimico italiano Montedison, riesce a produrre, ma riesce a creare, riesce a inventare una molecola, ma portarla sul mercato è un altro discorso, perché oramai il livello di investimento è molto così quindi alto che noi non possiamo farlo più da soli. Fare un'alleanza con altri per portare una molecola sul mercato. Fino a 15 anni fa noi pensavamo di poterla portare da soli. Oggi, qualche anno fa, abbiamo fatto un accordo al 50% con una società americana. La Gowan. No, la FMC, con la quale abbiamo sviluppato. Stiamo sviluppando un nuovo prodotto al 50%, però devo dire che anche il 50% oramai va al di là della nostra dimensione. Quindi noi dobbiamo considerare, e siamo abituati a farlo, meccanismi intensi di alleanze, di accordo, per creare la base, per sfruttare la base organizzativa e finanziaria, per sfruttare adeguatamente le nostre invenzioni. E poi per lo sfruttamento si può anche ricorrere al licensing. Infatti nell'ambito delle iniziative per creare la base, noi stiamo attuando una politica di licensing. Noi negli ultimi 4 anni abbiamo raggiunto accordi con terzi per un totale di 20, che ci hanno determinato un valore iniziale di 25 milioni di euro, che diviso 4 fa circa 6 milioni all'anno, a cui poi fanno seguito i margini dalla vendita del prodotto o royalties. Però il punto fondamentale è trovare delle parti che hanno capacità e interesse a sviluppare dei pezzi, di valorizzare per parti, per pezzi, la nuova invenzione. Ecco, e su questo è stato fatto anche un accordo con la multinazionale Gowan, no? Un accordo nuovo, recente. Questo è un accordo importante di 3 anni fa, che però non riguarda specificamente l'alleanza. Allora, 3 anni fa facemmo il macro accordo in testa. E infatti poi c'è un annuncio recente. Di partnership finanziaria. Forse lei giustamente fa riferimento all'accordo stipulato pochi mesi fa per lo sviluppo da parte della Gowan, che è socio nel sistema di controllo di Isagro, per lo sviluppo del nostro fungicida Chiralaxil, per uno sviluppo in Europa. Loro investiranno per lo sviluppo di questo prodotto in Europa. Ecco, questo è un esempio classico di licensing che nella fattispecie abbiamo fatto con quello che è un socio nel sistema di controllo, di minoranza, ma è un socio importante nel sistema di controllo di Isagro. Ecco, il tema delle grandi, delle medie imprese, perché è giusto parlare di medie imprese e non più di PMI, il tema delle medie imprese italiane è reperire i capitali per sviluppare nel mondo con efficacia la loro nicchia di mercato. Questo tema a cui lei fa riferimento è determinante. Determinante, mi faccio dire, se non per tutte le 4.000 medie imprese italiane, quelle del famoso segmento del quarto capitalismo, certamente per una quota importante. In questa logica, e anche nell'ambito di un periodo di 8 anni durante i quali mi sono stato impegnato con un ruolo nell'associazione Assolombarda, nell'ambito di quel periodo io ho pensato a un nuovo strumento che è stato poi, con 3 anni di lavoro, è diventato uno strumento utilizzabile. Le azioni sviluppo. Che, da come l'ho capita io, sono per alcuni aspetti simili alle azioni di risparmio, cioè c'è un dividendo maggiore qualora previsto ma non c'è il diritto di voto in assemblea. L'aspetto in più è che in caso di OPA si trasformano automaticamente in azioni ordinarie. Questa tipologia di azioni dovrebbe permettere alle aziende familiari di raccogliere capitale senza rinunciare al controllo familiare, che è un valore. Guardi, intanto se mi permette qualche precisazione, io assolutamente non le posso considerare raffrontabili le azioni di risparmio, non garantiscono un dividendo come invece le azioni di risparmio, non garantiscono un privilegio sul dividendo, nel senso che non è garantito il dividendo. Quando però c'è il dividendo c'è una maggiorazione di questo dividendo, mentre invece è fondamentale non solo che non solo in caso di OPA, ma non appena il controllante perde il controllo, queste azioni, anche senza che ci sia ancora un'OPA, è probabile che ci sia, ma anche senza un'OPA, diventano ordinarie. Questo spiega perché, da un punto di vista di logica economico-finanziaria, dovrebbero valere qualche cosina in più delle azioni ordinarie, perché hanno la stessa tutela patrimoniale e hanno un extra dividendo se c'è il dividendo. Questo serve a incoraggiare il medio imprenditore italiano, e ricordiamo agli ascoltatori che l'Italia si regge sulle medie imprese che ormai generano quasi il 60% del valore aggiunto, le medie imprese manifatturiere a capitale familiare. Questo serve a incoraggiare il medio imprenditore italiano ad andare in borsa senza rinunciare al controllo della sua azienda, perché uno non ci voleva andare per dire poi perdo l'azienda, invece così mantiene l'azienda e può andare in borsa con questo nuovo strumento. Quello che è molto importante, e temo che non sia così chiaramente percepito, è che il mantenimento del controllo non è un gusto strano, è la condizione per portare avanti un progetto industriale. Allora, finché lo si vuole portare avanti, nel momento in cui non lo si vuole più portare avanti o non lo si può più portare avanti, in quel momento si perde il controllo, in quell'istante diventano tutte azioni ordinarie. La logica è molto forte: finché io posso andare avanti con un progetto industriale in autonomia mi tengo il controllo ma ti do un extra dividendo, nel momento in cui invece rinuncio a questo autonomo progetto industriale perdi l'extra dividendo ma sei diventata azione ordinaria, quindi qualunque movimento di OPA ti vede allineato. È una valenza che è stata capita molto bene da coloro che a suo tempo lavorarono, in particolare Borsa Italiana. Cioè, le azioni sviluppo se le ha inventate lei insieme a Borsa Italiana, Asso Lombarda, Mediobanca, e poi anni dopo la Isagro è stata il primo, speriamo non l'ultimo, ma solo il pioniere nel emettere questo nuovo tipo di strumenti. Sì, ebbi questa idea, ci lavorai per 2 anni con le parti che lei ha ricordato, hanno condiviso l'idea, è diventato un prodotto approvato dalla Consob. Noi l'abbiamo introdotto sul mercato 3 anni fa per la prima volta. Al momento siamo i soli, e a mio avviso è un peccato, però credo che anche in questo caso il tempo sarà galantuomo, perché lo strumento io credo proprio che sia di grande ausilio per lo sviluppo, la crescita delle medie imprese italiane. Bene, dobbiamo chiudere, saluto gli ascoltatori e saluto Giorgio Basile. Ringrazio per l'attenzione e ricambio il saluto. Arrivederci, a domani ore 13:10.